Salva Danaio con Valeria De Rosa. Buongiorno, ben ritrovati, sono le 12:16, nuovo appuntamento con Salva Danaio. Oggi parliamo dei libretti al portatore, sono scattate nuove regole dall'entrata in vigore della nuova manovra finanziaria, quella del 13 agosto scorso, e quindi nuove regole che si applicano non solo ai libretti ma in generale alla circolazione dei contanti, ma in questo caso particolare noi partiamo dai libretti al portatore e quindi parleremo del vincolo di questi 2.500 euro, quindi addio ai libretti sopra questa soglia. Vi diremo che cosa si deve fare qualora abbiate un libretto che è superiore ai 2.500 euro. Lo faremo come sempre con alcuni ospiti. Allora saluto subito Fabio Picciolini, che è segretario nazionale della Diconsum, ben ritrovato, buongiorno. Buongiorno a voi. Claudio Bertuccelli, che è uno dei dirigenti del controllo conformità di BancoPosta, buongiorno anche a lei. Buongiorno. E poi dalle 12:30 aspettiamo l'avvocato Giovanni Staiano, che è responsabile del settore affari legali dell'ABI, ma appunto dovremo aspettare le 12:30. Prima di, come sempre, introdurre con la nostra scheda il tema di oggi, a questo proposito vi ricordo anche i numeri attraverso i quali potete contattarci: 800 24 00 24 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri sms, e d'obbligo una finestra sui mercati in queste che sono giornate piuttosto concitate e febbrili. Oggi i rialzi sono sostenuti e quindi le borse riescono a mantenere il buon andamento di ieri, supportate anche dalla chiusura positiva di tutti i listini asiatici, in particolare Tokyo ha chiuso in rialzo del 2,82%. In questo momento Parigi guadagna un 3,36%, Francoforte il 3,5%, Londra guadagna il 2,36%, a Milano il FTSE MIB è in progresso del 2,87%. Quindi a questo punto appare chiaro che i listini credono, sostengono a gran voce il rafforzamento del fondo salva stati, anche se poi dobbiamo comunque sottolineare che questa decisione è appesa al voto del Parlamento tedesco, che si riunisce giovedì e dibatterà su questo tema. Si inizia poi a ragionare anche su eventuali e concrete misure alternative contro la crisi del debito dell'Eurozona. Secondo la TV CNBC ci sarebbe allo studio anche la creazione di una sorta di struttura in grado di acquistare titoli di Stato dei paesi in difficoltà. Questa sorta di ente dovrebbe dipendere dalla BEI, dalla Banca Europea degli investimenti. La attenzione ovviamente è sempre puntata sulla Grecia. Ricordiamo che oggi il presidente Papandreou è volato in Germania, questa sera incontrerà la cancelliera Merkel, domani la Troica dovrebbe tornare ad Atene per discutere con il governo ellenico. Che cosa è successo? Stamattina Papandreou ha già parlato agli imprenditori tedeschi, gli ha chiesto a gran voce di investire in Grecia. La Grecia non manca di risorse, è semplicemente stata amministrata male per molto tempo, ha detto Papandreou, e comunque Atene intende rispettare tutti gli impegni presi fino a questo momento. Ovviamente ci vorrà del tempo. Oltre a questo è intervenuto in qualche modo anche il Giappone, il quale si è fatto avanti per dare la sua disponibilità nell'aiuto verso questa crisi finanziaria che si sta verificando in Europa. Ricordiamo che il Giappone era già intervenuto nell'acquisto di titoli sia per l'Irlanda che per il Portogallo. Sui listini in particolare evidenza tutto il settore bancario, vanno molto bene i bancari a Parigi, ma anche a Piazza Affari. Il titolo migliore in questo momento è UbiBank, che guadagna il 5,93%, in grande evidenza anche la Banca Popolare di Milano, che guadagna il 4,75%. Ricordiamo che oggi è un giorno molto importante per l'istituto, perché il Consiglio di Amministrazione è chiamato a deliberare l'entità dell'aumento di capitale e rafforzare ovviamente i fondamentali e anche il varo della nuova corporate governance. Sul fronte macroeconomico, altro dato atteso per oggi è quello in arrivo dagli Stati Uniti, che misura il dato che misura la fiducia dei consumatori americani. Velocemente uno sguardo anche ai cambi: 1,3512 il cambio sul euro su dollaro in questo momento. Ricordiamo anche che per quel che riguarda i titoli rimane piuttosto stabile lo spread, quindi il differenziale tra BTP italiani e bond tedeschi, intorno a quota 370. Esaurita la nostra parentesi dedicata ai mercati, andiamo ad affrontare il nostro tema e lo facciamo con la nostra scheda. Tra i cambiamenti portati dalla manovra di agosto ci sono anche nuove regole che disciplinano i pagamenti in contanti fra privati, abbassando la soglia al di là della quale sono consentiti. Nuove misure con cui si vuole colpire più duramente l'evasione fiscale nel nostro paese e che viaggiano di pari passo con la maggiore severità e l'inasprimento delle pene in materia di reati tributari. La restrizione fa scendere da 5.000 a 2.500 euro e più precisamente a 2.499 euro la soglia massima consentita per i pagamenti in contanti. Viene così posto un freno alla circolazione indiscriminata delle banconote, ma anche degli assegni bancari, postali e circolari e di uno degli strumenti più diffusi e utilizzati dalle famiglie italiane, il libretto al portatore. Tutti i libretti al portatore, siano essi bancari o postali, in euro o in valuta estera, vanno quindi estinti se hanno un saldo pari o superiore a questa cifra. In alternativa, devono essere ridimensionati e riportati al di sotto dei 2.500 euro. Per i titolari c'è tempo solo fino al 30 settembre prossimo per mettersi in regola o chiudere i depositi, pena la segnalazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che farà scattare una sanzione compresa tra il 20 e il 40% del saldo del libretto. Banche e Poste Italiane hanno il dovere di dare ampia diffusione e informazione alla clientela su questa nuova norma, ma visti i tempi stretti è importante che ognuno inizi a muoversi autonomamente per verificare che l'utilizzo di questi strumenti e quello che ne stanno facendo i propri familiari, soprattutto quelli più disattenti, non esponga al rischio di una multa che potrebbe rivelarsi molto salata. Allora, la nostra scheda ci ha aiutato a capire meglio quali sono i termini dell'argomento di cui trattiamo oggi. Una cosa è saltata proprio evidente all'orecchio: le sanzioni sono molto molto salate. Io però volevo chiedere subito a Fabio Picciolini quanto, se, ovviamente non dando proprio un numero specifico, ma quanto è ampia la platea di persone di cui stiamo parlando che hanno libretti al portatore? Numero è ovviamente certo difficile, però per dare un'idea. Certo, diciamo che comunque ci sono due situazioni: uno di persone che storicamente avevano il libretto al portatore, ad esempio tutti coloro che avevano nelle campagne era abbastanza normale, dopodiché ci sono dei libretti che servono anche a livello per altre situazioni, per cui io credo che ancora possiamo parlare di qualche milione di libretti, anche se chiaramente già l'abbassamento a 5.000 euro sì, di due anni e mezzo, meglio ancora, aveva già ridotto moltissimo questa possibilità, quindi credo che sia un numero su cui si può lavorare in tempi anche abbastanza rapidi. Certo, questa poi tra l'altro è una misura che dà un'ulteriore botta, quindi è probabile che poi i libretti al portatore a questo punto insomma abbiano vita breve da questo momento in avanti. Ma è anche giusto e poi ormai sono diventati anche abbastanza anacronici, perché sì, comunque poi ci sono i due responsabili di Poste e poi Abi che lo potranno dire. In ogni caso le banche e le Poste prendono il nominativo della persona che si presenta allo sportello, per cui a un certo punto avere il libretto al portatore appunto è un po' un portato storico che non è però quello che oggi serve ancora. A fini di antiriciclaggio i dati identificativi di chi si presenta allo sportello sono necessari, insomma. Certo. Dottor Bertuccelli, intanto io vorrei che lei spiegasse a me, ma anche a chi ci ascolta, che lavoro fa, perché vorrei capire questo controllo conformità di BancoPosta, lei come lo spiega? Nella sostanza, buongiorno, facciamo della consulenza preventiva e successiva sull'applicazione della normativa, cioè verifichiamo come imposte in azienda viene applicata la normativa. Quindi a questo punto sul tema, per esempio, noi diamo anche indicazioni, disposizioni, controlliamo le circolari, certo, che escono per vedere se sono conformi alla normativa. Io mi volevo riagganciare a quello che diceva il dottor Picciolini, sì, per dire che in effetti il tema dei libretti al portatore era un tema che forse era, diciamo, molto molto cruciale ai fini antiriciclaggio in passato, perché non venivano identificati i soggetti che li accendevano. Ormai, sì, da anni, dal 91, anche il libretto, anche chi accende un libretto al portatore, e correttamente diceva Picciolini, viene identificato, per cui in realtà è diciamo, il problema è meno drammatico di quanto si voglia far apparire. Sostanzialmente, aprire un libretto si può fare nominativo o al portatore, noi ne abbiamo svariati al portatore, ma sì, diciamo che la finalità antiriciclaggio era la primigenia finalità. Sì. Recentemente si è utilizzata la normativa, la manovra fiscale, per dare una stretta maggiore sostanzialmente al trasferimento del contante dedito al portatore, e sia che sicuramente ne beneficia il campo antiriciclaggio, ma soprattutto in questa fase della nostra vita, dello Stato, sembra che anche ai fini fiscali, anche e soprattutto, si possano trarre, certo, giovamenti. E si, quindi, sa quanto ne abbiamo bisogno, insomma, per evitare, per cercare di arginare l'evasione fiscale. Prima di dare la linea alla regia, io però, dottor Bertuccelli, le voglio subito girare un sms, perché ci ha scritto una signora, la quale dice: ho aperto un libretto postale a mia figlia per incassare un assegno di un'assicurazione di circa 5.000 euro. Non posso più versarlo a questo punto. Io però immagino che questo sia un caso un pochino diverso, visto che lei dice: ho aperto un libretto postale a mia figlia. Il discorso è diverso, nel senso che la norma adesso prevede che sui libretti, per qualsiasi libretto al portatore, il saldo non possa essere superiore a 2.000, pari o superiore a 2.500, sì, ma qui mi sembra che stiamo parlando invece di un libretto nominativo, esatto, che ha aperto un libretto alla figlia, ha aperto un libretto nominativo cointestato a lei e alla figlia, e quindi a questo punto ci può versare qualche importo vuole di assegni e le poste glielo può cambiare. Ecco, no, era giusto differenziare le tipologie, perché immagino, da come ha scritto la signora, che appunto in questo caso si parli di un libretto nominativo. Le 12:34 minuti, stiamo parlando dei libretti al portatore, dei nuovi vincoli che scattano il 30 settembre, dobbiamo ricordarlo e sottolinearlo, sono misure che entreranno appunto in vigore tra pochissimi giorni, quindi bisogna affrettarsi se si hanno libretti al portatore che hanno somme superiori ai 2.500 euro. E allora, io voglio ripartire da Bertuccelli per una ulteriore specifica, perché il signor Massimo da Ferrara chiede: ma per i libretti nominali, intende, cambia qualcosa? Immagino di no. Per i libretti nominativi non cambia niente, quindi si continua a operare come in passato. È soltanto per quelli al portatore che dobbiamo o estinguerli o ricondurli al saldo al di sotto dei 2.500, oppure trasformarli in nominativi. Allora, dottor Picciolini, ci sono arrivati alcuni sms, ribadisco il numero 349-238-6666 per scriverci, 800-24-0024 per intervenire in diretta, e tra pochissimo andremo anche agli ascoltatori che sono già collegati. Però prima volevo chiederle questa cosa, appunto ci sono un paio di ascoltatori che ci hanno scritto e hanno scritto: ho ritrovato dei libretti, alcuni, una signora del 1968, un altro signore scrive un libretto di 50 anni fa. Che cosa devo fare per a questo punto riscuoterli? Come mi devo comportare? Questa è l'ultima moda del momento, cioè ritrovare libretti molto persi molto qua e là. Sì. Sappiamo, credo che anche Poste sappia bene, che ci sono alcuni legali che stanno vedendo la possibilità di far rimborsare queste somme, anche se sì, molto vecchie. Noi siamo arrivati al 1913 con un nostro, con un cittadino che si è rivolto a noi. Diciamo, ci avete così battuto, perché qui il signore dice addirittura 50 anni fa, pensavamo già quindi, di essere tornati abbastanza indietro nel tempo. Credo che fossero 5 lire, se ricordo bene la pratica. No, il problema problema è questo qui. Allora, io so che questi avvocati si basano sul fatto che il libretto, essendo personale, essendo appunto non si chiude, rimane fermo, rimane non utilizzato, questa è la linea di condotta. Sì. Personalmente e come associazione abbiamo moltissimi dubbi su questo argomento per due ordini di motivi. Il primo è un po' la storia di questi libretti, come può vedere per un assegno o per altre cose, che normalmente c'è un periodo di prescrizione. Sì. Per cui normalmente 10 anni, diciamo, per cui, come avvenuto in passato, normalmente alla scadenza del 10° anno libretti bancari o postali che fossero andavano al cosiddetto conto profitti e perdite, quindi a bilancio della sì. banca, ovvero successivamente, e questo credo che sia poi un po' il punto nodale su cui affrontare, è stata emanata la legge sui fondi dormienti, sì, sì. che dice chiaramente che dopo x anni, 2 anni le polizze, 3 anni di assegno circolare, 10 anni i libretti, se questi conti non sono movimentati, debbono essere girati al fondo dormienti del Ministero dell'Economia, con una possibilità in più, non per tutti, ma con una possibilità in più, che si possono risvegliare questi conti, questi depositi nei successivi 10 anni. Ecco, questa legge mi sembra che sia un po' derimente rispetto a queste richieste, fermo restando che poi ci saranno i vari livelli di giudizio e probabilmente mi daranno anche torto, però le do un po' le motivazioni per certo. cui noi non seguiamo un po' questa moda. Allora, io intanto saluto, perché ci ha raggiunto telefonicamente, il dottor Giovanni Staiano, l'avvocato responsabile del settore affari legali dell'ABI. Anche a lui buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Subito però devo andare da Enzo da Bergamo, che ci aspetta da un po'. Buongiorno, benvenuto anche a lei. No, purtroppo non abbiamo fatto in tempo, e allora diamo la linea a Giuseppe da Verona. Buongiorno. Buongiorno. Il problema è questo: una quindicina di anni fa si dovette accendere un libretto al portatore in forza di una sentenza del tribunale, in attesa del grado finale di giudizio. Sono passati gli anni e la causa non è ancora finita, e all'entrata in vigore della norma dei 5.000 euro, sì. grazie alla direttrice dell'ufficio postale dove è stato acceso, che ci ha telefonato, nelle ultime 24 ore siamo riusciti a recuperare dove era depositato questo libretto, rifarne 2 nuovi, perché nel frattempo erano maturati gli interessi, sì. per cui si erano abbondantemente superati i 5.000, e sono stati accesi 2 libretti nuovi, che adesso mi pare siano sui 3.000 euro. Chiaramente non sono nella disponibilità mia come amministratore allora di questo bene dei comunisti. Adesso, bisogna di nuovo andare a prenderli con un preavviso di qualche ora e riaccenderne ancora di cose nuove. Allora, capisco la sua domanda, e anche a metà con una rimostranza, e questo mi dà la possibilità di fare sia al dottor Bertuccelli che al dottor Staiano una domanda specifica, perché parto a questo punto dal dottor Staiano. Io vorrei capire, in merito alla problematica dell'informazione, perché qui veramente mancano pochi giorni, anche se ovviamente è una norma contenuta nella manovra, che cosa si è fatto a livello diciamo locale, inteso proprio allo sportello, per far capire alle persone come si dovevano comportare in questa situazione. Dottor Staiano. Beh, guardi, diciamo, l'attività è stata rivolta allo sportello con appunto degli avvisi che sono stati posti nelle filiali, e oltretutto ci sono banche che hanno utilizzato i propri siti internet per diffondere, diciamo, ulteriormente questa notizia, e questi avvisi sono evidenziati gli aspetti più rilevanti, diciamo, della normativa e il comportamento a cui appunto il titolare del libretto, il portatore del libretto, è tenuto per appunto rispettare i principi stabiliti dalla legge, quindi la necessità appunto di dover ricondurre al saldo pari inferiore a 2.500 euro, perché se è pari o superiore diventa appunto sopra la cosiddetta soglia, e quindi ridurre entro il 30 di settembre del 2011 appunto questo saldo sì. ad un importo inferiore ai 2.500 euro. Sì. Non è necessario, ho parlato di riduzione proprio perché non è necessario estinguere il libretto. Sì. questa è una delle possibilità, ma appunto il portatore del libretto, cioè chi lo ha in mano in sostanza, si può presentare a sportello e chiedere appunto la riduzione del saldo all'interno della soglia prevista, proprio al fine di ricondurre, diciamo, ai principi stabiliti dal legislatore, quindi a rispettare le previsioni del legislatore medesimo. Quindi le attività che sono state svolte, sì, sono da un lato appunto questi avvisi che sono presso tutti gli sportelli. Sto parlando delle banche, poi ovviamente il dottor Bertuccelli parlerà. Sì, per certo, posto, per la posta. E per ulteriormente ci sono stati tutta una serie di avvisi che molte banche hanno utilizzato come per qualsiasi altro strumento di informazione alla clientela, generalizzata, su appunto, diciamo, il sito internet. Il vero problema, siccome questi sono libretti al portatore, è chiaro che la banca non conosce chi nel momento in cui deve essere effettuato un adempimento è il destinatario di questo, sì, adempimento, e quindi non è che può mandare una comunicazione, diciamo, a quello che ritiene o presume, certo, o gli potrebbe risultare come il soggetto intestatario del rapporto, perché questo rapporto potrebbe aver circolato per molte volte, quindi l'informazione potrebbe essersi un po' persa nel, certo. Poi dopo, se mi lascia solo un momento, perché credevo fosse il dottor Picciolini che parlava di depositi dormienti, avevo bisogno di fare una precisazione sul punto. Sì, tra un attimo torno anche da lei. Dottor Bertuccelli, mi racconta un po' che cosa avete fatto per quanto riguarda le, sì, poste? Sì, sì, anche noi abbiamo dato ampia informativa, abbiamo fatto degli avvisi al pubblico, affissi in bacheca in tutti gli uffici postali, in cui chiaramente diciamo che entro il 30 settembre 2011 deve essere ricondotto il saldo. Quindi è stata fatta un'ampia informativa a livello di uffici, dopodiché poi abbiamo inserito nel nostro sito internet anche lì una serie di domande e di risposte, ci siamo, diciamo, posti le varie casistiche che si possono realizzare, e abbiamo dato delle ampie risposte anche nel sito internet. Poi nel foglio informativo per la clientela, cioè abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare per informare al meglio la clientela, sì, tenendo conto che i tempi ovviamente sono, che ha dato il legislatore, sono un po' ristretti, però certo, quello che si poteva fare l'abbiamo fatto al massimo. Allora, io ovviamente voglio fare un pochino l'avvocato del diavolo, e allora chiedo al dottor Picciolini, e poi ovviamente tornerò, non si preoccupi, dottor Staiano, le darò modo di fare la sua precisazione. Volevo chiedere a Fabio Picciolini se sembrano questi, se sono secondo lei questi, diciamo, tutti i mezzi validi ed efficienti per arrivare a tutti quelli che devono sapere cosa fare, perché immagino ci sia anche una platea di non più giovani che magari non hanno proprio facile accesso, non so, ai siti internet piuttosto che... Ma questo è un problema che abbiamo già è stato sollevato la volta precedente, in cui, non mettendo assolutamente in dubbio le informazioni che banche e poste stanno dando presso gli sportelli o presso o in altra maniera, sicuramente l'informazione può essere molto molto più ampia. Io per esempio non ho visto, a meno che non mi sia sfuggito, ad esempio nei grandi giornali o nei grandi rotocalchi che un po' leggono tutti, grande spazio a questa cosa delle informazioni, certo, di questo tipo, perché come diceva giustamente lei, per carità, va bene, o in televisione anche addirittura, certo, sì, se non nei telegiornali che non tutti ormai guardano, perché come diceva giustamente lei, non tutti vanno comunque di corsa ogni giorno, ogni mese alla posta, non tutti hanno internet, e purtroppo questa norma è stata molto rapida come applicazione. Certo. Le faccio un esempio, addirittura sono state trovate delle scamotage per non far pagare sanzioni per il fatto che appunto ci fossero libretti di importo più alto a una certa data subito dopo l'arrivo. Ovviamente dobbiamo dire, come ha detto già uno dei nostri interlocutori, che il poco spazio dato per poi l'applicazione di questa norma diciamo pesa molto anche proprio nell'informazione che deve raggiungere tutti gli interlocutori. Velocemente, Siriana dalla provincia di Firenze, a lei do la possibilità di fare la domanda, ma la risposta dovrà attendere dopo la viabilità. Buongiorno. Buongiorno. La domanda è questa: io avrei voluto offrire un librettino a mio nipote che è nato ora di agosto, come a suo tempo feci con mia figlia, in modo da mettergli i soldini per i compleanni, per Natale, per Pasqua, che poi a 18 anni se l'è trovati, come mia figlia ha usato per comprarsi una macchina, ecco. Certo. Sapete dare un'alternativa? E allora cerchiamo di rispondere alla signora Siriana, che voleva aprire un libretto per il nipote nato da pochissimo, un libretto postale. Dottor Bertuccelli, a lei la risposta. Ma perché no, possiamo aprirlo lo stesso, abbiamo un bel libretto nominativo con la delega della madre, della nonna o di chi altro a versare, e ci potrà versare tutto quello che vuole, in fin dei conti lo strumento del libretto ancora esiste. Certo. Dire. Allora, Enzo da Bergamo, buongiorno, benvenuto anche a lei. Sì, buongiorno, pronto? Sì, la sentiamo benissimo, ci dica. Allora, poiché ho perso parte della trasmissione, mi scuso se pongo un quesito a cui avete già risposto. Comunque questo, nel 2008 ho aperto un libretto di risparmio postale. Ecco, prima di tutto, riguarda la nuova normativa questo tipo di libretto oppure no? Sì, riguarda, però deve essere un libretto al portatore. Sì, il libretto al portatore. Sì, diciamo che l'ho aperto era un deposito cauzionale a seguito di contratto di affitto. Sì. E quindi questo libretto è in possesso del padrone di casa, diciamo così. Sì. Ecco, chiaramente in questi anni questa somma qui ha maturato degli interessi che vanno ad aggiungersi al capitale iniziale. Certo, chiaramente. Certo. Ecco, quando questo interesse con il capitale iniziale, eccetera, raggiunge i 2.500 euro di soglia. Sì. Cosa bisogna fare? E poi comunque il libretto è diciamo adesso è in possesso del padrone di casa, quindi chi è che deve intervenire? Certo. Io o lui? Certo. Allora, dottor Picciolini, la giro a lei perché in realtà il signor Enzo apre un argomento che è un argomento abbastanza dibattuto, perché spesso i libretti al portatore vengono proprio utilizzati per la cauzione in caso di affitto. E quindi a questo punto si apre proprio un problema che non è solo del signore di Bergamo, ma di magari chissà quanti altri inquilini che hanno appunto versato, diciamo così, in questo modo la cauzione. Sì, diciamo che il dottor Bettulcelli, che saluto peraltro, sicuramente saprà rispondere meglio di me. Comunque il problema non cambia assolutamente, il problema è sempre quello che certo. con gli interessi vengono superati i 2.500 euro, c'è una sanzione a partire dal 1 ottobre prossimo, perché l'ammontare non può essere superiore. Io credo che, visto che lui è il locatario di questa casa, se ho capito l'affittuario, sì. Dovrà sentire un attimino di corsa anche, ecco, perché poi perché il 30 settembre il proprio proprietario della casa per poter modificare questo libretto. È evidente che le corse sono un po' meno rapide se il libretto attualmente è di un importo abbastanza limitato, per cui ci vorrà un pochino più di tempo per arrivare al limite di 2.500 euro. Certo. Allora, io invece al dottor Stagliano, oltre a dargli la possibilità di fare la precisazione, volevo anche girargli un SMS di una signora che ci ha scritto per ben due volte per precisare proprio che cosa le è successo, e lei dice: sono impazzita ieri per 280 euro in più su un libretto intestato a mio fratello, dove i miei genitori versano per mio nipote una somma di denaro. Mio fratello è all'estero, in banca non mi hanno fatto togliere i soldi in più la banca ha deciso per aprire un conto a nome di mio nipote. Ora io non capisco allora, bene, però, nel senso che secondo me in questo caso c'è un problema che è proprio di rapporto con la banca, perché questo immagino sia un libretto con tanto di nominativo, visto che lei dice intestato a mio fratello. Ovviamente se fosse un libretto nominativo, sì, e cioè non al portatore, può operare sul conto, è abilitato a operare sul conto soltanto la persona intestataria, e quindi il nominativo, ecco perché probabilmente, e direi, vi è stata questa richiesta da parte della banca, e cioè il fatto che l'ordine di prelievo gli pervenisse dalla persona che ha diritto di poterlo effettuare. Quindi non siamo nell'ipotesi di un libretto al portatore, perché chi si presenta in banca con il libretto ha poi la titolarità del rapporto e quindi può operare sul rapporto medesimo. Molto probabilmente qui siamo invece in un libretto appunto nominativo, e la persona che si è presentata a operare sul conto, sì, tra certo, non è la titolare del libretto. Quello che però si desume dall'SMS è quasi come se la signora fosse stata in qualche modo obbligata a togliere questa somma specifica per non andare oltre i 2.500 euro, e quindi in questo caso si creerebbe invece una situazione un po' più intricata, evidentemente. E capire effettivamente come è avvenuto, l'unico elemento che la come dire, che giustifica la richiesta della banca, dovrebbe essere riferita al fatto che il libretto è un libretto nominativo e non al portatore, e quindi la richiesta di operazione è venuta da parte di un soggetto che non è abilitato. Qual è il problema sostanzialmente? È che se si fa un'operazione su un libretto intestato a persona diversa, è chiaro che poi l'intestatario del libretto può disconoscere quello determinato prelievo e quindi chiedere alla banca il rimborso delle somme, perché sono state prelevate e quindi versate a un soggetto diverso da quello che ha diritto, da cui ne ha diritto. Allora, dottor Staiano, le do la possibilità di fare la precisazione, le chiedo semplicemente di essere un po' breve. Il dottor Bertuccelli e il dottor Pecciolini, la questione è riferita ai conti dormienti. Sì. Ho sentito appunto il dottor Picciolini diceva la normativa entrata in vigore ha consentito poi da un certo momento in poi il riversamento al determinato fondo delle somme dei rapporti dormienti. Bene, bisogna considerare però che questa normativa si è applicata anche ai rapporti che erano già divenuti dormienti, cioè inattivi nel momento in cui è entrata la normativa in vigore, tant'è che le banche hanno provveduto a riversare numerosi rapporti proprio al MEF e diciamo la prova di questi rapporti inattivi da tempo, cioè risalenti negli anni, quindi anche di rapporti diciamo del 1960 eccetera, perché la normativa si applica sia ai conti correnti che ai libretti di deposito per quanto riguarda i rapporti bancari oltre che ai depositi titoli, si è avuto un riversamento appunto nel primo anno di applicazione che ha riguardato anche tutti i rapporti e depositi già da tempo fermi, bloccati, inattivi, e che quindi avevano già da tempo maturato il termine di 10 anni di inattività. Quindi non è che le banche si sono per il periodo precedente all'entrata in vigore di questa normativa incamerate le somme, ma hanno provveduto, ed è provato appunto dalle comunicazioni numerose che ci sono anche diciamo sui siti internet sia delle banche ma anche dell'economia e delle finanze, hanno provveduto al riversamento delle somme, quindi relativa a questi rapporti che già avevano compiuto il periodo decennale di inattività. Allora, dottor Staiano, la devo interrompere perché non riesco a dare la linea all'ultimo ascoltatore, che è Luca da Milano, il quale però dice: perché sanzioni così alte sono davvero alte? Allora, in un flash, una risposta di Picciolini. Ma perché come si può dire, si fanno parecchi reati. Da un lato appunto c'è la legge dell'antiriciclaggio, fondamentalmente sia un discorso che potrebbe riguardare l'evasione fiscale, quindi secondo me su queste cose non abbiamo grandi problematiche quando ci sono sanzioni di questo tipo. Sì. Anzi, io mi augurerei che su altri versanti ci fossero uguali sanzioni. Ci siano sanzioni altrettanto importanti. Allora, io ringrazio i nostri ospiti: Fabio Picciolini, segretario nazionale della Dicomsom, Claudio Bertuccelli, uno dei dirigenti del controllo conformità di BancoPosta, Giovanni Staiano, responsabile del settore affari legali dell'ABI. A tutti voi un grazie, a tutti voi che ci avete ascoltato, l'augurio di una buona giornata.